Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Buonasera da Focus Economia e da Deborah Rosciani, che vi racconta la giornata economico-finanziaria in questa giornata dell'Epifania, in cui, come per la verità è successo per tutta la settimana, nonostante la maggior tranquillità magari delle ultime giornate di dicembre, perché comunque siamo in un periodo ancora prevalentemente festivo, le notizie economico-finanziarie non sono davvero mancate. Un segnale molto chiaro su come si sta monitorando con estrema attenzione l'evoluzione della crisi europea, che non ha fatto mancare i suoi riverberi anche sulle contrattazioni in borsa. E a proposito di borsa, cosa è successo oggi? Ieri, lo ricorderete bene, un'altra giornata nera soprattutto per Milano, che è letteralmente crollata di nuovo sotto il peso dei titoli bancari e del nuovo ribasso pesantissimo di Unicredit. Stamattina le piazze finanziarie si erano svegliate di migliore umore, tentavano un piccolo rimbalzo, quantomeno cercavano di chiudere la settimana con una magrissima consolazione dopo i cali degli ultimi due giorni, che a loro volta avevano annullato e cancellato i rialzi dei primi due giorni dell'anno. E poi cosa è successo? È successo per la verità una cosa positiva, perché è arrivato il dato sulla disoccupazione americana, molto buono, sorprendentemente buono. Poi a questo tema dedicheremo un approfondimento nel corso della trasmissione con il corrispondente da New York del Sole 24 Ore, Mario Platero. Ma le borse non si sono per niente interessate a questo dato, hanno avuto una reazione molto contenuta e temporanea a Wall Street così come in Europa. Poi appunto nella seconda parte del pomeriggio di nuovo tutte quante negative, e adesso abbiamo questo quadro: Parigi che perde lo 0,30%, Francoforte meno 0,77%, Londra invece è positiva per lo 0,41%, ma ormai Londra si affranca dal resto d'Europa da settimane. Negli Stati Uniti il Dow Jones segna un meno 0,3%, il Nasdaq leggermente positivo più 0,14%, quindi c'è un piccolo tentativo di cambio di marcia a Wall Street. Standard & Poor's meno 0,13% e Milano meno 0,87%. Quello che è accaduto a Milano oggi è di nuovo del sorprendente, perché Unicredit aveva fatto partire la sua giornata di nuovo sotto i peggiori auspici. Il titolo in avvio perdeva il 3, il 4, il 5%, è stato sospeso, è finito in asta di volatilità, è arrivato a perdere il 12% intorno a mezzogiorno, mentre facevamo salvadanaio era di nuovo ad una perdita a due cifre. Poi, in concomitanza con il dato americano, cosa che chiaramente con le vicende di Unicredit non c'entra nulla, è arrivato, ha recuperato tutto, ha azzerato le perdite, è arrivato a guadagnare 3,5 punti. Poi gli investitori ci hanno ripensato e hanno ricominciato a vendere il titolo, che adesso perde di nuovo l'8,21% e porta giù tutto il listino, che è in calo appunto dello 0,87%, e si riporta con sé tutti i titoli bancari, stesso copione degli ultimi giorni. Popolare di Milano meno 4,61%, Intesa San Paolo meno 4,46%, Popolare dell'Emilia Romagna meno 3,70%, anche questo titolo davvero continua a grattare a terra, Azimut meno 3,42%, Banco Popolare meno 3,39%, Monte dei Paschi meno 2,50%, Ubibanca meno 2,60%. Tra i titoli bancari troviamo anche così anche Toz, che perde il 2,63%, Mediobanca meno 2, Salvatore Ferragamo meno 1,64%. Chi troviamo dall'altra parte? Chiaramente poi i temi di borsa li approfondiremo dopo le 17:30. Fiat più 2,73%, STM che brinda i dati di Samsung più 2,24%, Prysmian più 1,64%. Il dato americano ha comunque consentito una nuova accelerazione del dollaro, l'euro sul biglietto verde è finito oggi fino a 1,2697, quindi ha violato al ribasso anche la soglia di 1,27 per recuperare adesso 1,2728. Sullo yen sempre ai minimi da 10 anni, abbondanti a 98,07. Insomma, questo è il quadro, in quadro in cui il differenziale di rendimento fra i titoli italiani e quelli tedeschi oggi è tornato a risalire in maniera abbastanza forte, e anche poi vi dirò anche di quanto, ma ve lo posso già anche anticipare, fino a 525 punti base. Questi sono i temi legati alla giornata di borsa. Quali altri temi approfondiremo ancora oggi? Il blitz di Cortina dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, un'altra storia molto divertente che abbiamo scovato oggi appunto leggendo i giornali, di una cosa che succede presso una USL del Veneto, dove praticamente tutti quei pazienti che prenotano delle visite poi non si presentano, non si capisce poi per quale ragione, ma ve la spiegheremo, vengono addirittura segnalate ad Equitalia come pazienti negligenti che fanno perdere tempo in sostanza alla sanità. Poi vi racconteremo anche questa. Chiaramente dovremmo raccontarvi anche della giornata di Monti a Bruxelles e poi oggi a Parigi. Dovrebbe essere cominciato da poco l'incontro all'Eliseo con Sarkozy e poi un focus sul dato sulla disoccupazione americana. E quindi, anche se per questa settimana Focus Economia è durata un'ora, da lunedì con Sebastiano Barisoni riprende per 1:30, i temi davvero non ci mancano e non ci mancano neanche in questa giornata dell'Epifania. Se volete commentare con noi i fatti economici di oggi, avete sempre la medesima opportunità. È il 349-238-6666, il numero appunto per i vostri messaggi. Adesso partiamo con le notizie in breve della giornata. Allora, le materie prime, come sempre in avvio di notizie in breve. L'oro oggi è andato a 1627 dollari l'oncia, leggermente in rialzo rispetto alle chiusure di ieri. Ha aperto di nuovo in rialzo anche il petrolio a New York, il WTI a 102,02 dollari al barile. Lo spread fra BTP e Bund resta saldamente ancorato sopra i 520 punti base, arrivato a 525 questa mattina, con il rendimento del titolo decennale che si è attestato intorno anche al 7,14%. Diamo però una buona notizia oggi e ringraziano qua tutti i mutui di molte famiglie italiane che hanno la rata, praticamente il calcolo della rata agganciata, essendo un mutuo a tasso variabile, all'Euribor, ai tassi interbancari. Allora, sta continuando un fenomeno del quale non parliamo a sufficienza, magari dando anche un po' un sospiro di sollievo alle famiglie che ci ascoltano, agli risparmiatori che ci ascoltano. Sta continuando il trend a ribasso dei tassi interbancari dell'Eurozona. Il contratto a 3 mesi, che è quello a cui sono ancorati molti mutui di famiglie italiane, è sceso oggi sotto quota 1,30, attestandosi all'1,2880, il livello più basso da aprile scorso. È in flessione anche il contratto ad 1 mese, allo 0,93%, quello a 6 mesi sceso all'1,56%, dopo i 2 tagli consecutivi del costo del denaro effettuati dalla Banca Centrale Europea, che ha portato i tassi, come ricorderete, nell'ultima riunione di dicembre dall'1,5% all'1%, i tassi interbancari avevano reagito con adeguamenti limitati e parziali alle mosse di Eurotower, a riflettere il momento di grande tensione che si respira sui mercati. Adesso, a quanto pare, si sta tentando di andare verso una normalizzazione anche da questo punto di vista. Andiamo a curiosare sui fenomeni economici internazionali. In Cina il surplus commerciale è sceso nel 2011 del 12,5% rispetto all'anno precedente, anche se non sono ancora stati resi noti i dati ufficiali. Il Ministero del Commercio di Pechino stima in circa 160 miliardi di dollari il surplus del 2011 contro i 183 miliardi del 2010, ma comunque maggiore dei 150 miliardi che il governo si era dato come obiettivo. Il dato americano sull'occupazione. Allora, l'economia americana in dicembre ha creato 200.000 nuovi posti di lavoro nel settore privato. Il tasso di disoccupazione è sceso all'8,5% dall'8,7% di novembre. Si tratta del miglior risultato dal febbraio del 2009 ed è superiore alle stime degli analisti. Nell'intero 2011 l'economia americana ha creato 1.600.000 posti di lavoro. Si tratta del miglior risultato in 5 anni. Tra l'altro, questo dato oggi si confronta anche invece con le stime di Eurostat sulla disoccupazione europea. Ve li darò tra poco i dati che si riferiscono al mese di novembre, ma sempre guardando agli Stati Uniti e guardando ad una società che ci interessa perché, come sapete, è controllata da Fiat, Chrysler aggiunge un terzo turno e assume 1.100 persone presso l'impianto di Jefferson North Assembly, ampliando la gamma Jeep Grand Cherokee per includere una versione diesel destinata al Nord America. Lo ha comunicato Chrysler in una nota, sottolineando che riaprirà, come si era impegnata a fare, l'impianto di Conner Avenue, situato sempre a Detroit, e dove assumerà anche in questo caso 150 persone. Il nostro futuro, così come la storia dei nostri marchi, è legata, ha detto Sergio Marchionne, a quella della città di Detroit, e riteniamo che investire a Detroit non sia solo la cosa giusta da fare, ma la cosa più intelligente da fare mentre stiamo scrivendo il prossimo capitolo della nostra storia comune. I dati europei sull'occupazione, questa è stata una settimana in cui peraltro tutti i paesi dell'Eurozona hanno diffuso i loro dati. Ieri, come ricorderete, abbiamo dedicato anche un approfondimento alla situazione italiana. Il tasso di disoccupazione nella zona dell'euro in novembre è rimasto invariato rispetto ad ottobre, al 10,3%. Era al 10% nel novembre dell'anno precedente. Nell'Unione Europea 27 la disoccupazione dello scorso mese di novembre è stata pari al 9,8%, era al 9,6% nell'anno precedente. Il record dei disoccupati spetta a Spagna, questa settimana lo abbiamo detto, al 22,9%, Grecia 18,8%, Lituania al 15,3%. I tassi più bassi si registrano invece in Austria, la disoccupazione al 4%, Lussemburgo ed Olanda entrambi al 4,9% e in Germania, di cui abbiamo appunto anche parlato nei giorni scorsi, contrapponendola alle statistiche spagnole, al 5,5%. Il tasso italiano è, anche se molto alto, comunque al di sotto della media europea, lo ricordiamo ancora, all'8,6%. In Italia gli scoraggiati, quelli che rinunciano a cercare lavoro, sfondano la soglia del 1,5 milioni, raggiungendo nel terzo trimestre del 2011 quota 1.574.000. Si tratta del livello più alto da quando sono iniziate le serie storiche, ovvero nel 2004, quindi da quando si effettua questa rilevazione. Questo emerge dai dati Istat in base a confronti tendenziali. Ritorniamo un po' sul fronte internazionale. Ieri vi abbiamo raccontato di come sia tornata a fare capolino la crisi di alcune economie dell'est. L'Ungheria ieri addirittura ci sembrava ad un passo dal baratro, e oggi naturalmente figuriamoci se le agenzie di rating non si alzavano per dire la loro, e Fitch oggi ha ben pensato di tagliare il rating dell'Ungheria a spazzatura, abbassandolo di un gradino a BB+ da BBB-, quindi doppia B+ da BBB-, e l'outlook naturalmente rimane negativo. E ci sono problemi in vista anche per il neonato governo belga di Elio Di Rupo. La Commissione europea ha respinto la proposta di bilancio 2012 per il Belgio, riportano appunto oggi i media. Secondo la stampa, Bruxelles giudica troppo ottimista la stima sul deficit al meno 2,8%, con una crescita del PIL prevista allo 0,8% più 0,8%, secondo gli esperti della Commissione. Il disavanzo dovrebbe attestarsi al 3,1%, cioè sopra la soglia del 3% fissata dal patto di stabilità e di crescita. E bisogna monitorarla molto attentamente la situazione del Belgio, che si è impegnato anche a nazionalizzare Dexia, ma a quanto pare ritorna in auge da qualche ora a questa parte l'ipotesi che se ne possa incaricare quasi completamente il governo francese. Anche questa sarà una bella battaglia da monitorare attentamente nelle prossime settimane. Un altro dato che è arrivato oggi dalla Germania riguarda il crollo degli ordinativi industriali in novembre, che hanno segnato una flessione del 4,8% dopo il più 5% del mese prima. Forse anche questo dato oggi ha contribuito a deprimere un po' le borse, che hanno cercato di leggerlo forse diversamente, ma poi si sono orientate al negativo. La notizia è stata diffusa dal Ministero dell'Economia tedesco. Si tratta del calo più pesante da gennaio 2009. Le attese erano per una flessione più modesta all'1,8%. Un'ultima serie di considerazioni riguardo alla crisi dell'euro, e poi ci torneremo appunto quando vi racconteremo di questa giornata di Mario Monti. È improbabile che l'euro sparirà nel 2012, lo ha detto il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, durante una conferenza stampa nel corso della sua visita in Sudafrica. Dichiarazione nettamente contraria invece quella che porta la firma oggi, visto che è intervenuto alla CNBC, di Raghuram Rajan. Io adesso non so se la pronuncia è esatta di questa però figura estremamente autorevole in economia internazionale, l'ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale. Rajan ha detto: l'area euro potrebbe non sopravvivere alla crisi così come è, ovvero come un blocco. Direi che per le notizie in breve di oggi ci possiamo anche fermare. Andiamo al nostro primo approfondimento di questa puntata di Focus Economia. Qualcuno si è divertito molto anche rispetto a quello che ha letto nei giorni scorsi su questo folcloristico, chiamiamolo così, blitz di Cortina, nel quale sarebbero emersi appunto molti comportamenti fiscalmente scorretti, per dirla con un eufemismo, da parte di commercianti, albergatori e chi più ne ha più ne metta. E oggi appunto, mentre molti giornali riportano le conseguenze di questa vicenda, abbiamo scovato sui giornali un'altra notizia che ha destato la nostra attenzione, che in qualche maniera possiamo mettere insieme anche a quello che è accaduto a Cortina d'Ampezzo. Appunto, che cosa è successo? È successo sempre in Veneto, peraltro. Dopo questo blitz del quale si è tanto parlato in questi giorni, il direttore generale della USL 8 della città di Asolo, Renato Mason, cosa ha fatto? Per rispettare i tempi di attesa delle visite, perché hanno un record di efficienza enorme, ha deciso che chi salta l'appuntamento con il medico prenotato non solo dovrà pagare comunque il ticket, ma subirà anche una segnalazione ad Equitalia, che farà pagare sanzioni ed oneri inserendo il segnalato in una sorta di lista nera di utenti responsabili di negligenza. Perché questa negligenza dovrebbe interessare ad Equitalia? Che finalità potrebbe avere un'iniziativa di questo tipo, se anche fosse percorsa da altre usle appunto del nostro paese? Marco Bellinazzo, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Deborah. Questa ci ha divertito veramente tanto. Tu che idea ti sei fatto rispetto a questa iniziativa intrapresa da questo manager, che evidentemente, dicevo prima, vuol fare rispettare lo standard di efficienza dei tempi massimi di attesa fissati dalla regione a livelli molto alti, al 99,5%. Ma mi chiedo perché, se uno si dimentica di una visita medica, dovrebbe essere addirittura segnalato ad Equitalia. Mi sembra che il dibattito post Cortina, leggevo ora anche le ultime agenzie prima di scendere qui, stia raggiungendo livelli quasi demenziali. Ora, al di là, naturalmente non mi riferisco all'iniziativa di Renato Mason, ma al dibattito politico che ha suscitato l'intervento dell'Agenzia delle Entrate a Cortina. Questa iniziativa mi sembra, in qualche modo fuori luogo. Già il record della USL 8 di Asolo è invidiabile. Vorrei vedere quante aziende sanitarie, insomma, possono vantare in Italia, cioè, un record di questo tipo. Prenoti una visita tipo in tempi abbastanza ragionevoli, la fai senza dovere, se è una struttura pubblica naturalmente. L'intervento di Equitalia mi sembra assolutamente sproporzionato, anche perché si tratterebbe di 30-40 euro tra ticket, diritti fissi ed eventuali sanzioni. Ricorrere addirittura a Equitalia e brandire Equitalia come una sorta di uomo nero che in Italia serve a far rispettare qualsiasi tipo di obbligo, anche quello delle liste d'attesa, insomma, mi sembra un po' troppo. Si è voluto far bello questo manager, ci sembra un po' strano, anche perché, voglio dire, se anche un paziente si dimentica della visita che ha prenotato e ha pagato il suo ticket, non è che questo va a ridurre l'efficienza comunque del rispetto delle prenotazioni che la regione, in ogni caso che la USL in questione, garantisce. Chiamiamola una forzatura, diciamo, ecco. Che c'è già una blacklist, se ho letto bene, insomma, gli articoli che hanno riportato questa notizia, per cui chi eventualmente non ha pagato, si è dimenticato della visita e quindi ha un debito con l'erario, potrebbe essere subire una sorta di cartellino giallo e non poter fare ulteriori visite finché non paga. Mi sembra più che sufficiente questo, ricorrere a Equitalia, insomma, soprattutto perché già Equitalia ha tanti problemi in questi mesi e li abbiamo raccontati anche con episodi gravi, infatti, quindi che stanno continuando purtroppo in tutta Italia. Intanto, Marco, a due giorni dal famigerato, famoso ormai, blitz di Cortina, il punto della situazione qual è rispetto alle iniziative prossime che gli 007 del fisco vorranno intraprendere? Perché a questo punto si sono dati degli obiettivi molto molto precisi, solo che adesso vengono alla luce del sole, non che prima non si facessero tutti questi controlli. E tu hai fatto oggi una tabella molto chiara sul Sole 24 Ore, raccontando proprio un anno di blitz. Sì, l'Agenzia delle Entrate, ma non dimentichiamo quelli che fa la Guardia di Finanza, stanno garantendo sul territorio una serie molto ampia di controlli, che magari sono in termini quantitativi inferiori al passato. Dal punto di vista qualitativo, anche per le banche dati di cui l'amministrazione finanziaria dispone, mirano a essere sempre più qualitativi. Questo significa che mirano a recuperare sempre più somme di denaro, ed è chiaro che intrecciandosi questa efficienza con la crisi economica, si vengono a creare gravi situazioni poi di tensioni, di tensione sociale, e qualcuno poi finisce per approfittarne. I blitz proseguiranno anche in altre località montane, come sono stati fatti in estate in località diciamo di mare ben note agli italiani, e evidentemente puntano ad avere un effetto deterrenza. Parliamoci chiaro, scoprire che chi possiede un SUV ha anche un reddito dichiarato di 30.000 euro lo si può fare stando comodamente seduti in un ufficio e incrociando i dati che l'amministrazione finanziaria quindi possiede. Quindi tu dici che questi blitz, oltre ad avere chiaramente poi una risonanza mediatica enorme, quindi come dicevi tu giustamente vogliono fare anche una sorta di deterrente rispetto ad altri comportamenti poco virtuosi magari in altre parti d'Italia, ma secondo te comunque la presenza fisica è più efficace, al di là dell'incrocio di dati attraverso i database che si hanno, il redditometro, lo spesometro, abbiamo un sacco di strumenti che conosciamo. Molto probabilmente, però mi chiedo se sia necessaria anche quella degli agenti dell'Agenzia dell'Entrata, oltre a quelli della Guardia di Finanza. L'Agenzia dell'Entrata potrebbe invece concentrarsi, come spesso viene appunto detto anche dallo stesso vertice, sulle operazioni più importanti, quelle che portano i grandi patrimoni all'estero in maniera illecita e che permetterebbero evidentemente di recuperare ben altre risorse. Magari rafforzare un po' il lavoro dietro le quinte. Un'ultima domanda, Marco, sempre ritornando alla questione di Cortina, tu questa mattina con Marco Mobili sul Sole 24 Ore proponi anche la fotografia della capacità contributiva di gran parte dei contribuenti su cui si sono concentrati gli eccessi del fisco a San Silvestro. Che tipo di incrocio hai fatto? Siamo riusciti a recuperare un po' di dati relativi ovviamente ai ristoratori, albergatori e soggetti che hanno esercizi commerciali di abbigliamento. Non hai fatto nessuna attività di 007, sono dati pubblici questi? No, abbiamo fatto attività giornalistica. Ecco. E effettivamente sono molto bassi, insomma, si arriva intorno ai 40.000 euro per un ristorante. È chiaro che quando si parla di medie c'è sempre la sindrome di Trilus, e quindi chiaramente ci sono grandi alberghi e piccoli invece e piccoli alberghi che certamente non fanno sfoggio di lusso, così come ci sono ristoranti da gran gourmet e invece piccole trattorie che finiscono in quel contesto quando sono sullo stesso territorio. Però è evidente, insomma, che quei dati in qualche modo poi giustificano una iniziativa su Cortina, tant'è vero che Befera ha detto a Cortina non siamo andati per caso, evidentemente c'era già stata fatta un'analisi precedente all'intervento poi degli 80 funzionari dell'agenzia del 30 dicembre. Tu sai che io sono marchigiana, sono rimasta molto male anche di questo blitz nei ristoranti degli chef d'alto rango della mia regione, insomma. Beh, a fine dicembre. Sai che la polemica politica ieri, soprattutto dalla parte della Lega Nord, è stata fatta chiedendo all'agenzia di andare spesso a sud. Con questa tabella abbiamo dimostrato che l'agenzia è andata anche al sud, anche al centro, insomma non ha risparmiato nessuna località. È molto federalista, insomma, questa, in questo evidentemente senso. Marco, grazie per essere stato con noi, buon lavoro naturalmente. Grazie a voi, a presto. Salutiamo gli ascoltatori che si sono accorti che naturalmente io ho detto ci risentiamo tra poco a Salvadanai invece che a Focus Economia, già tanto che non ho detto essere benessere o non ho lanciato un'altra trasmissione, ma come potete ben capire dopo una settimana di turno pieno con tante trasmissioni ormai la mia lucidità se l'è portata via la Befana. Detto questo, cerchiamo invece di essere lucidi sul prossimo argomento che andiamo ad affrontare, perché è molto importante, e adesso ci spostiamo appunto a Parigi, dove c'è il nostro Antonio Pollio Salimbeni. Antonio, buonasera. Buonasera a voi. Allora, dopo il prologo di ieri a Bruxelles è cominciato il tour nelle cancellerie europee del Premier Mario Monti. Oggi il professore, come diceva appunto, è a Parigi nella tarda mattinata, ha incontrato il primo ministro Fignon alle 17, quindi mezz'ora fa dovrebbe essere iniziato, poi Antonio ci dirà se è tutto puntuale, all'Eliseo, dove era previsto l'incontro con il presidente Sarkozy. L'11 gennaio Monti sarà a Berlino, 18 a Londra. L'Italia lavora mano nella mano con la Francia, così come con la Germania, per proseguire insieme verso la costruzione europea, ha detto Monti al termine di un pranzo di lavoro con Fillon, e poi nel pomeriggio appunto ha preso parte a questo convegno intitolato Nouveau Monde, una cosa del genere, dove ci sono state delle dichiarazioni molto interessanti. Io ve ne farei sentire un paio. L'Europa ha dimostrato a se stessa e agli occhi del mondo di essere più debole di quanto pensavamo. Sentiamo Monti. L'Europa è sempre stata capace di trasformare le difficoltà in passi in avanti, le crisi in occasioni di sviluppo. E questo è un momento veramente cruciale, è un alpinista che cammina su un crinale molto molto pericoloso, ma può riuscire a raggiungere una meta che allora ne farebbe certo non un continente che aumenta demograficamente in termini di prodotto interno lordo assoluto rispetto agli altri, no, ma non è questa l'ambizione, ne farebbe un continente che ritrova maggiore competitività, maggiore capacità di crescere, maggiore confidenza, fiducia in se stessa. Dalle considerazioni sull'Europa andiamo invece a quelle che interessano di più e i cui interessi naturalmente Monti ha portato prima a Bruxelles e poi a Parigi, la situazione italiana. Monti ha detto chiaramente a tutti, tutte le personalità che ha incontrato a Parigi, il nostro paese ha fatto uno sforzo senza pari tra i membri dell'Unione Europea. Sentiamo anche questo passaggio. Con questo treno di misure l'Italia viaggia verso un bilancio in pareggio nel 2013, saldo zero del bilancio nel 2013, uno sforzo credo senza pari tra gli Stati membri dell'Unione Europea, era giusto che lo facessimo, non era facile per gli italiani accettarlo, gli italiani l'hanno accettato, hanno però bisogno di vedere che il quadro europeo evolve positivamente e fa sì che quei paesi che si rimettono, e tutti devono farlo e lo stanno facendo, su un serio binario di disciplina, possano averne anche i benefici in termini di riduzione dei tassi di interesse. Antonio, allora Mario Monti ha rivendicato gli sforzi che l'Italia sta facendo per portarsi su questa strada del pareggio del bilancio, come l'Europa chiede entro il 2013, però ha anche detto, guardate che sono perfettamente consapevole e sono molto chiari i rischi di incomprensione che ci sono fra gli Stati europei. Ci racconti un po' il clima di questo incontro di oggi e anche il clima della vigilia dell'incontro con Sarkozy. Intanto devo dirvi che l'incontro con Sarkozy è in corso e può darsi che vi debba abbandonare fra qualche secondo perché si dovrebbero presentare piuttosto rapidamente per una dichiarazione comune insieme il presidente francese Sarkozy e Mario Monti. Diciamo il clima degli interventi e degli incontri che ha avuto qui a Parigi finora a Monti è stato ben delineato da voi, esattamente il senso è che l'Italia ha fatto quanto doveva fare e gli effetti di quanto ha fatto si sentiranno nel tempo e non soltanto, non è naturalmente solo questione di settimane. Il pareggio di bilancio del 2013 è stato confermato come obiettivo fondamentale per riequilibrare i conti pubblici, adesso tocca all'Europa, cioè più segnatamente qui in particolare all'Eurozona, prendere le decisioni e sostanzialmente si tratta di applicare quanto già deciso dall'ultimo vertice dei capi di Stato e di Governo a dicembre, cioè bisogna rafforzare le munizioni a disposizione del fondo salva Stati. Senza questa messa in opera di quanto deciso, il castello dell'Eurozona pagherebbe. Ci sei ancora Antonio? Ce la puoi fare ancora qualche minuto? Allora Mario Monti, senz'altro, Mario Monti ha cercato naturalmente con questo incontro anche chiaramente la sponda francese per quello che riguarda il supporto che lui vorrebbe relativamente alle modifiche che ritiene sia necessario fare nell'ambito della revisione dei trattati che dovrà essere ratificata appunto a marzo prossimo, come per esempio la considerazione del debito italiano in termini di aggregato, la grande battaglia di Tremonti, no, che voleva considerare anche lo stock di risparmio privato che le famiglie italiane come alleggerimento del peso del debito pubblico complessivo. C'è una sponda di questo tipo in Sarkozy o nel Ministero dell'Economia francese? Intanto assolutamente sì, questa è la situazione e la Francia sostiene nel corso del negoziato che è ricominciato questa mattina a Bruxelles a livello tecnico trattato intergovernativo che dovrà definire le regole del cosiddetto patto di bilancio. In effetti si tratta di non usare in modo automatico, meccanico, la regola del ventesimo, cioè del taglio di un ventesimo l'anno della parte eccedente il 60% del debito in rapporto al prodotto lordo. Per l'Italia si tratterebbe in sostanza di una manovra fra i 40 e i 45 miliardi all'anno. In questo senso bisogna vedere come evolverà il negoziato. La Francia sta con l'Italia, altri paesi stanno con l'Italia magari senza dirlo forte come Spagna, Grecia, Portogallo, che evidentemente ovviamente hanno un potere di negoziato politico inferiore, ridotto rispetto ad altri paesi. Si tratterà di vedere che cosa dirà il grande azionista, l'azionista con la maiuscola dell'Eurozona, che è la cancelliera tedesca Angela Merkel. E infatti, un'ultima domanda, Antonio, ti sento molto trafelato, poi ti lasciamo. Adesso magari, non so se si è parlato, perché non ho visto niente dalle agenzie, ma magari qualcosa è colto. Ieri è tornata a fare capolino come focolaio di crisi nell'Eurozona anche la questione ungherese. C'è preoccupazione su questi versanti, appunto, almeno nei vertici che hai seguito fino a questo momento? Hai avuto qualche riflessione anche su questo, magari con gli interlocutori, con le personalità che hai avuto modo di incontrare? Scusa, ho dovuto fare tutta perché c'era un movimento qui dei lo guarda, dei è anche molto bello sentirti raccontare questo. Ci devi lasciare oppure puoi restare un minuto? Riformuli la domanda rapidamente. Allora, in questi due giorni appunto si saranno tutti quanti accorti, perché poi ha avuto un effetto sui mercati abbastanza forte, che è ritornata a far capolino la crisi di alcune economie dell'Est Europa. Mi chiedo se nelle personalità che hai incontrato in questi giorni, se in qualche maniera anche tra Bruxelles e Parigi si sia discusso anche di questo e del peso che, se questa questione si dovesse inasprire nei prossimi giorni, potrebbe avere appunto anche nell'evoluzione della risoluzione della crisi del debito sovrano. Ma insomma, non mi pare che sia stato un argomento trattato. Certo, resta sullo sfondo la questione ungherese prima di tutto. È chiaro che se non si trovasse un accordo con il governo ungherese sulle regole sulla banca centrale per garantire l'autonomia e l'indipendenza, questo sarebbe un vulnus su tutta la banca centrale europea, per il sistema europeo delle banche centrali, e viene considerato una condizione preliminare questa dell'indipendenza della banca centrale per garantire la stabilità all'intero sistema delle banche centrali europee. Si tratta di vedere, per ora questo elemento non pesa, diciamo, non si aggiunge alle palle al piede sulla gestione della crisi finanziaria. Finora potrebbe però evolversi in senso più negativo, naturalmente. Infatti, comunque, non sicuramente troverà il tempo per agganciarsi fra tutte le altre che hanno i leader europei in questo momento. Antonio, grazie per essere stato con noi, naturalmente buona serata, a presto. Eccolo qua, infatti ha chiuso molto rapidamente, come avete sentito, ma già dal suo ragionamento molto trafelato avete capito che lì sono momenti concitati, e questi leader bisogna rincorrerli, perché poi appunto fanno dei meeting che durano pochissimo, organizzano delle conferenze stampa nel giro di 12 secondi, chiaramente i giornalisti devono correr loro dietro. Tra l'altro, su tutta la questione europea ci sono state oggi anche delle altre dichiarazioni interessanti, qualcuna rassicurante, altre un po' meno. Questa di Christine Lagarde, per esempio, il numero uno direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, che ha parlato dal Sudafrica, ha detto è assolutamente improbabile che l'euro sparirà, poi ha detto nel 2012, chissà che cosa volesse dire, che questa sparizione è destinata appunto all'anno successivo, in altri momenti, speriamo di no. E poi il crollo dell'euro porterà alla disintegrazione dell'Unione Europea, con conseguenze catastrofiche per l'intero sistema finanziario mondiale. Questo è un avvertimento proprio molto rassicurante, lo ringraziamo, che lancia il miliardario George Soros in una intervista al giornale indiano Economic Times, e lo ha riferito oggi Reuters. Soros ha sottolineato che la crisi dell'Eurozona rappresenta una minaccia molto più seria di quella del 2008, innescata dal crack Lehman. Ce ne siamo accorti, caro Soros, e noi però speriamo che le sue previsioni non siano neanche minimamente vicine all'avverarsi. Allora, adesso che facciamo? Adesso facciamo una cosa divertente, perché anche questa giornata di borsa non ha mancato di divertirci. È stata una giornata veramente con non una doppia faccia, con 200 facce, soprattutto per il titolo Unicredit, ancora una volta a Milano, che chiude la sua seduta con un ribasso dell'11%, FTSE MIB meno 0,8%. Vi ho dato solamente i due tratti salienti di questa giornata che ha riguardato Piazza Affari, ma vi racconteremo anche com'è andata per tutte le altre borse. Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera. Benvenuta in questo circolo di Befane. Oggi ti preannuncio che peraltro c'è anche Valeria Bernardi in assistenza tecnica, per cui il quadro è completo. Non è la giornata delle tre streghe. Siamo al completo. Non è quella delle tre streghe in borsa, ma è un altro tipo di trittico, in sostanza. Allora, meno 0,8 di Milano, l'ho già detto. Parigi meno 0,24, Francoforte meno 0,6, Londra si avvia a chiudere positiva, più 0,32, Wall Street non sa bene che cosa fare. Gli indici sono contrastati, il Dow Jones è a meno 0,4. 0,14, il Nasdaq più 0,28, lo Standard & Poor's è sulla parità, l'euro ha ripreso 1,27, sul dollaro ero scivolato sotto questa soglia. Io ho definito questa giornata di borsa veramente con più facce, soprattutto su Piazza Affari. Intanto, in termini generali, quali sono stati i temi fondamentali che hanno condizionato questa seduta, Eleonora? Ovviamente c'è una grande volatilità oggi, appunto colpa della Befana, nel senso che in un giorno di festività la volatilità è salita alle stelle, visto che gli scambi sono anche più ridotti. Sappiamo infatti che i piccoli risparmiatori non possono essere operativi attraverso le banche. Detto questo, cioè, la Befana ha fatto un'altra sorpresa, nel senso che fino alle 15 circa gli indici del vecchio continente salivano e anche con una certa vivacità, anzi hanno festeggiato proprio dopo le 14:30 il dato americano, che è stato molto confortante. È stato infatti reso noto che oltreoceano a dicembre sono stati creati 200.000 nuovi posti di lavoro e soprattutto il tasso di disoccupazione è sceso all'8,5%, si tratta del livello più basso dal febbraio del 2009. E d'altra parte poi repentinamente sia i titoli sia gli indici hanno iniziato a frenare e a perdere terreno. A Piazza Affari hanno invertito rotta rapidamente soprattutto le azioni delle banche e Unicredit attorno alle 14:30 era arrivata a salire addirittura del 5% e poi ha di nuovo imboccato la strada del ribasso e ha chiuso in calo dell'11%. Ma... quindi complessivamente, tra l'altro, tra ieri e l'altro ieri aveva fatto meno 29, quindi meno 11, meno 40. Sì, no, vorrei sottolineare tra l'altro un altro dato interessante a proposito di Unicredit. La capitalizzazione della banca ad oggi con i prezzi di chiusura è di 7,6 miliardi, praticamente quasi in linea con l'aumento di capitale di 7,5 miliardi che partirà lunedì. Fiat, Eleonora Micheli, più 2,31%, cosa è successo oggi a Lingotto? Ma sia STI che Fiat sono soprattutto rimbalzi. Fiat comunque continua a navigare sotto i 4 euro, i titoli hanno chiuso la seduta a 3,97 euro. Evidentemente c'è stato un po' di interesse, è stato annunciato ieri che Fiat ha fatto salire la propria quota in Chrysler al 58%, abbiamo visto che le vendite di Chrysler nel 2011 sono andate bene, quindi c'è stato un po' di ritorno di fiducia, ma si tratta più che altro anche di un rimbalzo di natura tecnica. Poi va detto che comunque in generale, mentre sono andati male i titoli delle banche, c'è un ritorno di interesse un po' su i titoli, diciamo, dell'industria, o, come appunto non solo Fiat, STI, ma ad esempio anche Parmalat ha segnato un progresso dell'1,28%. Tra gli altri titoli, Autogrill più 1,67, che già comincia forse, mi veniva a mente l'aumento delle tariffe autostradali, adesso voglio dire, almeno quelle Autogrill non le prende, prendono altro, gli Autogrill lungo disseminati lungo la rete autostradale. Enel Green Power più 1,30, Parmalat, ve lo diceva Eleonora, più 1,28, Buzzi Unicem più 1,24, Prismian più 1,30. Tra l'altro volevo raccontarvi una cosa a proposito dell'auto, ma soprattutto del motociclo, perché Vespa debutta sul mercato indiano dalla vetrina del Salone dell'Auto Expo di Nuova Delhi, che è il maggior salone dell'auto e del motociclo dell'Asia. Questa notizia è stata comunicata dal gruppo Piaggio, che all'11ª edizione della manifestazione indiana ha svelato la Vespa LX125, che è stata sviluppata espressamente per il mercato indiano, che è il secondo maggiore al mondo per volumi, con circa 13 milioni di unità al mondo, 2 milioni e mezzo di scooter e con tassi di crescita che sono ancora, per fortuna, almeno questa parte del mondo, molto elevati. La produzione della Vespa per il mercato indiano, questo modello di 125, inizierà a marzo nel nuovo stabilimento di Baramati. La capacità iniziale è prevista 150.000 veicoli all'anno e le vendite inizieranno ad aprile, subito dopo il lancio commerciale, partiranno da una rete di dealer, di venditori, quindi che coprirà da subito le 35 più importanti città dell'India. La Galassia Ligresti, Eleonora, come si è mossa oggi? Sì, si è mossa in modo strano. Comunque, semmai sull'India volevo solo dire che proprio oggi è uscito un pezzo secondo il quale, in base ai dati che poi emergeranno sull'economia del 2011, l'India dovrebbe essere la terza economia, superando il Giappone e quindi alle spalle di Stati Uniti e Cina. Quindi la scelta di Piaggio dovrebbe essere azzeccata, almeno dai dati macroeconomici. Tornando ai Ligresti, Premafin ha registrato un rialzo di oltre il 14%, mentre il Fondo RSI ha accusato un'altra flessione di oltre il 5%. Un movimento strano, visto che Premafin dovrebbe andare in concomitanza con la società controllata. D'altra parte si inizia a scommettere che qualcosa stia per succedere, proprio magari nella scatola di controllo. In particolare Unipol ha confermato di avere allo studio probabilmente la fusione con Fondo RSI, ma che dovrebbe passare proprio attraverso la società controllante. La stessa Clessidra ha messo sul tavolo l'offerta, quindi vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni. Tra l'altro pare che siano interessati anche Sator e il fondo di Matteo Arpe, che potrebbe correre insieme alla 21 investimenti, e probabilmente anche altri fondi sono alla finestra. Eleonora, grazie, buona serata. Buona serata. Grazie. E spostiamoci immediatamente negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, perché oggi abbiamo un dato molto interessante di cui raccontare, che per la verità viene in questi minuti completamente trascurato dalla borsa sia americana che europea, ed è il dato relativo all'occupazione americana, perché l'economia americana in dicembre è riuscita a creare 200.000 nuovi posti di lavoro e il tasso di disoccupazione è sceso all'8,5% dall'8,7% di novembre. E allora sono tra l'altro anche cifre molto simili a quelle italiane, all'8,9% come abbiamo già detto prima, ma in ogni caso, parlando appunto degli Stati Uniti, quello di cui vi riferiamo è il migliore risultato dal febbraio del 2009 ed è superiore alle stime degli analisti. Nell'intero 2011 l'economia americana è riuscita a creare in un periodo davvero ancora devastante a livello internazionale, perché si stagna un po' dappertutto, l'economia americana è riuscita a creare 1.600.000 nuovi posti di lavoro, il miglior risultato in 5 anni. Io ho dato le cifre nude e crude. Mario Platero, buonasera a te, naturalmente la parola per l'analisi di questo risultato e anche un giudizio sul perché la borsa se ne disinteressa oggi così palesemente. Ma dunque, due cose devo dire, Deborah. La prima è che cominciamo a verificare che le manovre espansive americane, che per anni non hanno funzionato, stanno cominciando a dare i primi frutti. E qui stiamo parlando non soltanto di un tasso di disoccupazione che è migliorato, ma stiamo parlando di altri dati economici che non sono andati affatto male. Ieri abbiamo avuto, per esempio, vendite al dettaglio dei magazzini che sono andate, e nei giorni scorsi abbiamo registrato vendite di auto che sono andate altrettanto bene. Devo dire, il 2011 è stato forse l'anno migliore per il settore automobilistico degli ultimi 4-5 anni, come del resto il dato che tu stessa citavi prima, 1.600.000 nuovi occupati, è il miglior occupazione. Mario, ascolta, ti sentiamo super metallico, e siccome la tua analisi ci interessa, noi magari facciamo adesso un tentativo di ripristinare questo collegamento telefonico, perché vorremmo proporlo ai nostri ascoltatori nelle migliori condizioni possibili. E allora Mario Platero, oltre a fare un primo commento sul dato relativo all'occupazione americana, ci diceva che è uno dei tanti che conferma come forse negli Stati Uniti stia cambiando qualcosa, e sono diversi i dati macroeconomici che nei tempi recenti, nelle ultime giornate, hanno dato testimonianza appunto forse di un cambio di tendenza per quello che concerne l'economia a stelle strisce. Questa peraltro potrebbe anche essere una buona notizia per Barack Obama, visto che con l'avvio delle primarie e la sottoposizione appunto da parte dei candidati a queste primarie nei vari caucus statunitensi, appunto questi sono anche temi dei quali naturalmente si discute molto. Adesso sto vedendo Mauro Del Corno, che sta cercando di ripristinare appunto il collegamento telefonico con Mario Platero, che sta avvenendo però con grande difficoltà. Peraltro Mario prima ci raccontava di essere a Chicago oggi a seguire un simposio, un congresso appunto di un gruppo di economisti internazionali piuttosto importanti e autorevoli, e forse aveva anche delle riflessioni più approfondite da fare. Lo abbiamo. Mario, eccoci qua. Eccoci. Ho menato un po' il camper l'aia, però spero sì, che si senta molto meglio. Che si senta meglio, meglio, meglio, meglio, sì. Quindi già abbiamo rifatto, ecco, il riassunto. Allora, sì, stavo dicendo che qui abbiamo avuto vari dati che sono migliorati, e dunque siamo un po' a una svolta per l'economia americana. Credo che la svolta sarà soprattutto nel 2012, ma nel 2011 abbiamo già avuto dei risultati piuttosto importanti e significativi, e questo significa che la manovra americana, la manovra espansiva della Fed, ha funzionato. Ecco, c'è una lezione molto importante, credo, per l'Europa e soprattutto per la Germania, che ostinatamente ha rifiutato di seguire i consigli americani. L'America è passata esattamente attraverso quello che stiamo vivendo noi in questo periodo. Sono a Chicago in questo momento a una conferenza di economisti americani, migliaia di economisti, ci sono delle tavole rotonde molto interessanti. Ecco, una cosa che è emersa, ho sentito poco fa Weber, l'ex capo della Deutsche Bank, il quale diceva in termini molto chiari che l'America è più avanti, si dovrebbe seguire quello che sta facendo l'America, e lui è un tedesco ed è rigoroso ovviamente, eppure la Merkel continua a rifiutare. Questo è un problema che bisognerà affrontare, credo, molto presto, perché se ci sono dei risultati bisogna tenerne conto. L'inflazione è ovviamente importante, ma è anche altrettanto importante crescere, come sta cominciando a fare l'America. Quindi, insomma, che non si spaventi più di tanto rispetto ad iniziative di politica monetaria più espansiva da parte della nostra banca centrale. Mario, ci sono delle curiosità da parte di alcuni ascoltatori, non ti rubo più di un minuto. In quali settori sono stati creati i maggiori posti, il maggior numero di posti di lavoro in America? Tu ci hai già detto appunto di come il settore automobilistico abbia ricominciato a marciare a pieno ritmo, peraltro abbiamo già dato prima anche la notizia di un importante stabilimento della Chrysler, dove si assumeranno oltre 1000 persone. In quali altri campi è andata bene? Sì, allora ti ho citato il settore automobilistico, c'è il settore dei servizi, il settore delle vendite al dettaglio, il settore dei servizi direi è il più importante negli Stati Uniti d'America, quindi i grandi magazzini, le vendite al dettaglio occupano milioni e milioni di persone, una gran quantità di posti di lavoro sono stati generati anche nei posti per esempio di ristorazione, anche in piccole catene. Dal punto di vista industriale c'è per ora una ripresa meno forte, e una ripresa meno forte c'è anche nel settore immobiliare, che resta fermo. Non dimentichiamo, 200.000 posti di lavoro in più per un mese sono indubbiamente un buon risultato, ma non è il risultato tipico di una forte ripresa americana che genera 400-500.000 posti di lavoro al mese. Questo significa appunto che per ora alcuni comparti stanno cominciando ad andare bene. L'augurio che facciano da traino per altri comparti. Mm-hmm. Per finire, tu mi chiedevi come mai la borsa è tiepida. Beh, la borsa ha già scontato in qualche modo i risultati economici già nelle settimane scorse. Sì. Ed è tiepida perché? Perché il messaggio dall'Europa è straordinariamente preoccupante. Un finanziere come George Soros, di ieri, ha detto che sarebbe catastrofico se la crisi europea dovesse continuare. Poi tra l'altro all'evoluzione catastrofica lui ci crede anche molto. Mario, grazie, buona serata e buon lavoro a Chicago. Buona serata e grazie a Mario Platero per il Sole 24 Ore corrispondente dagli Stati Uniti. Grazie a Mauro Del Corno per l'aiuto e la pazienza di tutta la settimana a gestirmi. Valeria Bernardi stasera in assistenza tecnica. Lunedì torna il vostro Sebastiano Barisoni. Radio 24. La passione si sente.